Mi sembra che la situazione sia per tutti una sfida rispetto alla quale avvertono, e lo si avverte anche da fuori il palazzo, la responsabilità del sì e del no. È difficile con un paese così situato all'interno, cioè di una fase drammatica ancora per il Covid, non si vedono ancora le alternative, le soluzioni con il vaccino, e avendo a che fare o dovendo lavorare fortemente e velocemente sul recovery fund, per definirlo negli aspetti, nelle forme e nei modi di uso, è chiaro che in questa situazione un governo è fondamentalmente necessario, ed è un governo, come ha detto il Presidente, deve essere anche autorevole. Questa è la situazione in cui ci siamo. Ora, Draghi si trova a dover verificare dall'alto di un profilo che è unico ed è suo, la condizione di bassissimo profilo che caratterizza il Parlamento attuale. Questa mattina, ancora prima appunto dell'incontro tra Draghi e Mattarella, il Movimento 5 Stelle ha fatto sapere di non voler votare un governo tecnico, un governo presieduto da Mario Draghi. Questo inevitabilmente potrebbe spostare, qualora la Lega invece decidesse di appoggiarlo, l'asse del governo più a destra? Indubbiamente sarà un governo, se nasce, di larghissima unità nazionale, un po' ci ricorda il governo Monti. Ricordiamoci che questi si presentano come governi tecnici, ma sono governi politicissimi, perché devono prendere decisioni che riguardano milioni di cittadini in un modo o nell'altro, per o contro. Quindi non ci sono governi tecnici, perché non ci sono governi fondati sul calcolo matematico delle possibilità, ma su scelte. Le scelte sono sempre politiche. Quindi vedremo chi all'interno della compagine parlamentare si esprime. In questo momento, io sto leggendo il resoconto, alle 13:40 Zingaretti ha dato la disponibilità del suo partito a, diciamo, collaborare, a votare. I 5 Stelle saranno dilaniati di fronte a questo problema, alcuni di loro forse voteranno, altri no, e l'EU si è detta contraria, e poi vediamo la Lega, perché Giorgetti da qualche tempo aveva già profilato un Draghi come governo, quindi è probabile che sia un governo centro, che prenda tutto l'arco costituzionale, tenendo fuori le ali, cioè Fratelli d'Italia e parte del Movimento 5 Stelle e forse di Leo. Ma in ogni caso potrà avere vita lunga? Questo nasce per avere una vita autorevole. La lunghezza dipende dalla stabilità, dalle scelte che prende, dalla capacità di tenere armonia tra parti che sono molto distanti tra loro, e l'obiettivo, noi sappiamo, è di arrivare, l'ha detto Mattarella, alla fine dell'emergenza vaccinale, che significa l'estate. Dopodiché si entra nel semestre bianco, e quindi presumibilmente è un governo che dovrebbe durare almeno fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Prendo spunto dalle parole che ha detto prima, giustamente, cioè non esiste un governo tecnico, Draghi ha un curriculum ben preciso, quindi dobbiamo aspettarci un governo di stampo liberale? Secondo me sì, anche i nomi fatti, mi sembra che abbia fatto il nome di io leggo i giornali, lui non ha fatto ancora nessun nome. I giornali fanno circolare dei nomi che denotano una tipo di concezione, del resto c'è soltanto una concezione delle scelte economiche adesso, non è che ce ne siano più di una, e sono quelle, diciamo, che si intonano con una visione liberale. Tuttavia, ricordiamoci che le visioni liberali hanno delle sfumature più sociali o meno sociali. Ora, ci sono vari discorsi che Draghi ha fatto dopo che ha lasciato la presidenza della BCE, e alcuni di questi molto significativi da leggere oggi, perché denotano una attenzione alla dimensione sociale del benessere e non solo a quella privata. Quindi speriamo che continui su questa, speriamo dal mio punto di vista, cioè il punto di vista più ampio della società, che veda gli interessi e i problemi di tutti, e quindi si ponga nell'ottica di una giustizia sociale. Si può solo sperare.